Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma arrendersi o perire. Radio Liberazione. Il consiglio per questa lettura l'abbiamo ricevuto da dei grandi amici della Scuola di Pace di Montesole, che sono Gianluca Guidotti e Enrica San Giovanni della compagnia teatrale Archivio Z. E a loro la ridedichiamo perché ci siano per noi ancora lunghi percorsi di memoria, educazione, teatro e azione da fare insieme sui sentieri che tanto amiamo. La lettura è tratta da Educazione Europea di Romain Gary. Uomini affamati, esausti, vivevano rintanati nel cuore della foresta. Li chiamavano partigiani. Ormai da parecchio tempo questi uomini si battevano contro la fame, il freddo e la disperazione. Vivevano sparsi a piccoli gruppi di 6 o 7, nascosti nelle buche scavate sottoterra, al riparo della boscaglia, come bestie braccate. I viveri erano scarsissimi, spesso addirittura introvabili. La foresta era inghiottita dal gelido candore della neve, in un paesaggio dove gli abeti sparivano talvolta fino alla cima, e il silenzio aveva uno spessore da fine del mondo. Eppure continuava a raccogliere notizie da tutti i fronti clandestini in cui si continuava aspramente a lottare. Dalla Grecia, dalla Jugoslavia, dalla Norvegia, dalla Francia giungevano 1000 soffi di vita e 1000 battiti di una speranza tenace e segreta. In quei segnali, venuti da paesi che sembravano spesso lontani come gli astri di cui conoscevano soltanto i nomi, i partigiani trovavano l'eco della loro stessa determinazione, del loro stesso ostinato rifiuto di disperare. Quando diciamo che nessuna cosa importante muore mai, tutto quel che significa è che è morto qualcuno o che ci stanno per uccidere. Sei in collera, Janek, non devi. Non sono in collera, Zosia, ma alla fine ho capito. Tutto si spiega. Del resto ci hanno messi a una buona scuola e io sono sempre stato un allievo coscienzioso. Abbiamo ricevuto una straordinaria educazione. Ti ricordi, Tadek? La chiamava la nostra educazione europea. Non avevo capito allora, ero troppo giovane, e sapendo che stava per morire, Tadek metteva l'ironia dappertutto. Ma adesso ho capito. Aveva ragione. L'educazione europea, sulla quale era solito scherzare, è quando fucilano tuo padre o quando tu stesso ammazzi qualcuno in nome di qualcosa di importante o quando crepi di fame o radi al suolo una città. Ti dico che siamo stati a una buona scuola, tu ed io, ci hanno educati davvero. Era davvero diventato un partigiano abile e risoluto che sapeva portare a termine un'impresa e uccidere come migliori combattenti per la libertà. Ma questo sentimento di esaltazione e di gioia non durò a lungo. Forse per lo sforzo o per semplice reazione alla tensione nervosa, di colpo si ruppe qualcosa dentro di lui e dopo aver fatto un dettagliato resoconto della sua impresa e gettato il sacco di provviste ai piedi dei compagni, invece di rispondere alle domande eccitate, invece di rallegrarsi degli affettuosi colpetti sulle spalle e dei cenni di ammirazione, si mise a piangere. Per la prima volta da quando si era unito ai partigiani. Il cuore gli si riempì di uno strano rancore e li fissò attraverso le lacrime con uno sguardo che era quasi cattivo. Alle loro domande stupite rispose solo scuotendo la testa e quando infine si fecero silenziosi e lo lasciarono solo, afferrò Zosia per un braccio e la trascinò fuori. Camminarono lentamente sulla passerella di legno che appoggiava sulla palude gelata. Si fermarono vicino alla barca imprigionata dal ghiaccio, fra i canneti pietrificati e di tutte le cose che avrebbe voluto esprimere e gridare, di tutta l'indignazione che gli serrava il cuore, non disse che queste parole con voce tremante di bambino. «Voglio essere un musicista, un grande compositore». Vorrei suonare e ascoltare musica tutta la vita, tutta la vita. Guardò il mondo immobilizzato nel ghiaccio intorno a lui, in cui tutto sembrava condannato a restare pietrificato, senza cambiare più, senza nascere, senza rivivere, né germogliare fino alla notte dei tempi. in cui tutto era destinato a restare come nel giorno del primo crimine, in un'eterna condanna a uccidere e a morire, in cui l'orizzonte era un passato che si ripeteva sempre e l'avvenire solo una nuova arma, in cui le vittorie significavano soltanto nuovi combattimenti, l'amore era polvere negli occhi e l'odio serrava i cuori proprio come il ghiaccio attanagliava quella barca, dai remi aperti come braccia impotenti. E la piccola mano di Zosia, nella sua, era solo il frammento minuscolo e ghiacciato di un gelo universale. Solo Dobranski capiva quel che stava accadendo nel cuore di Janek. L'indomani mattina, mentre camminavano insieme attraverso i canneti per dare il cambio ai partigiani di guardia ai limiti della palude, gli disse: «Presto finirà, forse la prossima primavera. E allora te lo giuro, basta con l'odio, basta ammazzare, vedrai la pace, la costruzione di un nuovo mondo, vedrai». Quel tedesco era seduto sul ghiaccio, disse Janek, con i pattini ai piedi e quella sciarpa allegra intorno al collo che di sicuro gli aveva fatto sua madre o la fidanzata. E non era più vecchio di te, non mi ha neanche guardato, era rassegnato. Aveva semplicemente abbassato la testa e aspettava il colpo. Ho preso la mira, con calma, e ho sparato. Non potevi fare altro, Janek, è colpa loro, sono stati loro a scatenare questi orrori. C'è sempre qualcuno che li scatena, esclamò Janek con collera. Tadek aveva ragione, in Europa abbiamo le cattedrali più antiche, le più vecchie e celebri università, le più grandi biblioteche ed è qui che si riceve l'educazione migliore. Sembra che vengano in Europa da tutti gli angoli del mondo per istruirsi, ma alla fine quel che ti insegna tutta questa famosa educazione europea è come trovare il coraggio e delle buone ragioni, valide e convenienti, per ammazzare un uomo che non ti ha fatto nulla e che se ne sta seduto sul ghiaccio con i pattini e la testa china, aspettando la fine. Hai imparato molto, disse tristemente Dobranski. Si fermò nella neve alta fino alle ginocchia e alzando la testa si mise a parlare. Parlò di libertà e amicizia, del progresso, di pace e fraternità e dell'amore universale. Parlava di uomini uniti nella fatica del lavoro, ma anche in uno sforzo comune per comprendere infine il senso e il mistero del mondo. Parlava di cultura, arte, musica e scuole, di università, di cattedrali, di libri e di bellezza. In realtà, parve a Janek che Dobranski non stesse parlando, ma cantando.